Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ci risiamo, inseguiti dall'esiguità del tempo a disposizione. Buongiorno a tutti, parleremo di processi, parleremo di aerei e di accetti, di cucine preventivi e dei problemi della Corte Costituzionale, sperando che il tempo ce lo consenta. Buongiorno a tutti, dai.